Carlo, che succede? È la stampa, Belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Silvio Berlusconi torna socialista, lo Stato pesante. Prima il salvataggio dell'Alitalia, poi la garanzia per le banche a rischio. Il governo cambia politica e ficca naso e piedi nell'economia nazionale, dal formaggio alle auto. Dagli studi di Radio 24, un saluto da Bruno Perini. In regia con noi stamane c'è Peter Bescapè. E i titoli che vi ho appena letto sono del quotidiano Libero, che forse inaspettatamente per qualcuno, ma prende le distanze dalla nuova linea che è stata celebrata proprio ieri da Silvio Berlusconi, dal capo del governo, che dice gli aiuti di Stato sono un imperativo categorico, come dire, e quindi una svolta davvero importante rispetto al divieto agli aiuti di Stato che, come tutti sanno, vige ancora in Europa e che però dopo la grande crisi bancaria in corso e gli interventi degli stati in tutto il mondo, certo non ci si poteva aspettare che non cambiasse. Ora il quotidiano Libero scrive, è Oscar Giannino che scrive, quando un capo di governo dice che bisogna dare aiuti di Stato alle imprese, i casi sono essenzialmente tre. Il primo è che voglia fare piacere ad amici o amici degli amici. Il secondo è che sia un socialista, un collettivista, scusate, uno statalista. Chiamatelo come meglio vi piace. Il terzo è che abbia paura di quel che può succedere se non si fa fare allo Stato quel che lo Stato, pensate, non dovrebbe fare quasi mai, almeno se siete un liberale. Le parole di Silvio Berlusconi, pronunciate ieri, rientrano in questa terza categoria. Dobbiamo sperarlo almeno, dice e scrive Oscar Giannino. In caso contrario, alla luce delle pessime prove date dallo Stato italiano nella storia quando ha allungato la sua mano nell'economia, poveri noi. Per questo abbiamo deciso un titolo che è un po' anche un bonario rimprovero. Fronteggiare la crisi disastrosa dei mercati e impedire che si scateni come un vaion sull'economia reale è un conto, purché lo Stato faccia il bagnino che si limita ad evitare a chi affoga la morte finché il mare è grosso e non che torni a essere il dio delle tempeste. Quell'idea bislacca lasciamola agli statalisti. Diciamo che a dei liberali a denominazione d'origine controllata non può piacere una frase testuale come quella per la quale gli aiuti di Stato sono un imperativo categorico. Possono essere un rimedio temporaneo per evitare collassi sistemici e disastri generali sfuggiti al controllo di ogni forza del mercato. Questo sì, ma allora bisognerebbe presentarli senza enfasi né prosopopea, come si trattasse di un salvagente a dei naufraghi che altrimenti hanno come unica alternativa di essere inghiottiti dalle onde. E questo è il commento che viene fatto da Oscar Giannino sul quotidiano Libero. E quindi diciamo commento battente rispetto alle dichiarazioni abbastanza forti e clamorose ieri di Silvio Berlusconi dopo in una conferenza stampa. Ecco, se è Libero prende le distanze, bisogna dire che altri quotidiani invece in qualche modo considerano la cosa possibile e fattibile ad alcune condizioni. Per esempio il quotidiano La Stampa scrive, affida a Franco Bruni un commento dal titolo «Purché la cura sia mirata». Il rinnovarsi di violenti ribassi dei corsi di borsa dovuto alla crisi finanziaria ancora irrisolta e al suo effetto sull'economia reale, che diventa sempre più evidente e che è destinato a rimanere per qualche tempo anche dopo che i problemi strettamente finanziari saranno avviati a soluzione. Dopo aver aiutato le banche, che lo stanziamento di somme con lo stanziamento di somme portentose, è naturale che sorga in tutti i paesi una forte domanda di assistenza anche dalle imprese non finanziarie e dall'economia reale. Da tempo si chiedono riduzioni delle imposte sui redditi da lavoro più bassi, che aiuterebbero contemporaneamente il potere d'acquisto delle famiglie e il costo del lavoro delle imprese. Urgono aiuti per chi ha maggiori difficoltà con i mutui immobiliari e emerge la necessità di riorganizzare e arricchire i sussidi di disoccupazione, soprattutto nei paesi come l'Italia, dove questo tipo di ammortizzatori sociali è più debole e meno adeguato a una fase di inevitabile rinnovata ristrutturazione delle attività produttive. È normale che anche le imprese come tali domandino una speciale attenzione della finanza pubblica per le difficoltà che la crisi esaspera. Questo Franco Bruni poi dirà e scriverà in questo lungo articolo, bisogna che siano aiuti, devono essere il più possibile generali, assicurati con procedure poco discrezionali e molto trasparenti, devono inoltre facilitare l'aggiustamento e non la cristallizzazione dell'organizzazione. Quindi in qualche modo Franco Bruni considera l'opzione del Presidente del Consiglio più che fattibile io voglio poi dirvi che sulla stampa, ma questo lo vedremo dopo se avremo il tempo, vi è anche un'intervista su altro argomento ovviamente del ministro Maroni che dice sulle espulsioni andremo avanti lo stesso. Il ministro dell'Interno nega di aver fatto dietro front, come diceva un titolo della stampa stesso ieri, sull'immigrazione clandestina, il reato rimane e attacca Tripoli, non garantisce i controlli promessi. Inoltre in questa intervista Maroni dice non condivido la decisione di Bruxelles, prendo atto, ma chi non ha il diritto a stare qui tornerà nel suo paese. Il ruolo dei sindaci, non potremo mandarli via, ma senza residenza per loro sarà impossibile restare. Poi dice ancora, la Libia si era impegnata a rafforzare i controlli, di fatto non lo sta facendo, e dopo la prima giornata di campionato non abbiamo più registrato violenza. Questo a proposito della violenza invece negli stadi. Vi dicevo però, tornando alla questione degli aiuti di Stato, che se noi ci trasferiamo sul Sole 24 Ore, troviamo anche qui un commento non ostile, diciamo, a questa decisione o questo annuncio del Presidente del Consiglio. A parte che il titolo del Sole 24 Ore è ovviamente, come molti, quasi tutti uguali, sono i titoli di prima pagina stamane, il ritorno degli aiuti di Stato, male le borse europee, Wall Street in forte ripresa, Berlusconi da vietati a imperativi, ora sostegna il settore auto. Ecco, Berlusconi, bisogna ricordare che ha anche indicato il settore che potrebbe aver bisogno di aiuti, e dice Tremonti, aggiunge, usiamo i 30 miliardi della BEI. Dicevo, Franco Locatelli è l'autore del commento quando è in gioco l'interesse nazionale. La furia iconoclasta che accompagna la tempesta finanziaria manda in frantumi anche il codice Wimbledon, ma riscopre il valore del patriottismo economico e dell'interesse nazionale. L'intenzione del governo Berlusconi di correggere le nostre asimmetrie normative modificando la passivity rule delle società per difendere dal pericolo di scalate ostili dei fondi sovrani risponde esattamente a questi orientamenti. Poco importa che i fondi sovrani, che gestiscono immense risorse degli stati asiatici, russi e medio orientali ricavate dal petrolio e dall'export, non abbiano mai lanciato un'opa ostile e che fino a qualche giorno fa fossero considerati cavalieri bianchi del supercapitalismo piuttosto che i nuovi barbari alle porte. Nel gioco delle paure e delle speranze con cui anche i governi devono fare i conti, la percezione dei rischi vale talvolta più della realtà. E quindi in qualche modo dice, è una percezione del rischio quella di Berlusconi che va accolta e va presa molto seriamente, mi sembra che dica Franco Locatelli sul Sole 24 Ore. Identificare una volta per tutte gli interessi economici nazionali di un paese è un po' illusorio, ma collegarli alla difesa di asset insostituibili e determinanti per lo sviluppo generale non sembra irragionevole, dice ancora Franco Locatelli. Voglio ricordarvi che il Sole 24 Ore poi ha due cose, ha molte cose interessanti oggi, tra cui l'annuncio che domani in edicola ci sarà il libro sulla grande crisi, domande e risposte, è un'iniziativa del Sole 24 Ore per cercare di capire di fronte a che crisi siamo, e voglio anche dirvi che il direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli, proprio stamane nella trasmissione guidata, condotta dal direttore Gianfranco Fabi, sarà presente per presentare il libro e in qualche modo spiegarci il senso di questa iniziativa editoriale del Sole 24 Ore. Questa crisi non la paghino le imprese e i lavoratori. Vi avevo annunciato prima dell'interruzione che sul Sole 24 Ore troviamo un commento, un intervento dell'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, che sulla crisi ha, mi sembra di capire, le idee molto chiare in proposito. La crisi finanziaria è nata americana e oggi è globale. Ci troviamo di fronte a una bolla, ma i veri effetti negativi si vedranno sull'economia reale e non li abbiamo ancora visti. È possibile ed è anche molto probabile che le banche, per assicurarsi quei guadagni che hanno visto così tanto in pericolo, stringano i cordoni della borsa. Quello che deve essere chiaro a tutti, governi in testa, è che il conto non può essere pagato dalle imprese né dai lavoratori. Un intervento di tipo fiscale non è più rinviabile. Mi riferisco a una detassazione dei salari e degli stipendi, scrive Marchionne. Dice, personalmente ritengo che se i piani dei governi europei si possono considerare una buona notizia per il sistema finanziario, non possiamo dire altrettanto per l'economia reale. Ecco come, per esempio, Sergio Marchionne a suo modo prende le distanze dalla teoria della fine dei divieti degli aiuti di Stato. I rischi che abbiamo davanti sono alti. Il primo è quello di aver creato un'arma a doppio taglio. Da una parte garantisce alle banche di sopravvivere, dall'altra avrà un impatto enorme sul debito pubblico e sul PIL di tutti gli Stati europei. L'altro rischio è che gli obiettivi che hanno mosso queste iniziative, cioè garantire allo Stato allo stesso tempo liquidità al sistema bancario e finanziamenti alle imprese e ai risparmiatori, vengano centrati solo in parte. È possibile ed è anche molto probabile che le banche, per assicurarsi che i guadagni che hanno visto così tanto in pericolo, stringano i cordoni della borsa e quindi penalizzino le imprese. Questo dice, scrive Sergio Marchionne sul Sole 24 Ore stamattina. Voglio ricordarvi che il Sole porta in prima pagina ovviamente la notizia importante dal punto di vista economico e finanziario: la Banca di Libia aumenta dallo 0,87 al 4,23% la sua presenza in Unicredit. Bisogna capire se questo avrà dei riflessi, per ora è il secondo azionista, ci pare. E poi Antonello Olivieri su Finanza e Mercati apre con questo servizio: Telecom, barriere anti-OPA, i poteri speciali del tesoro riaffermati nello statuto, l'effetto debito a 37 mila, difficile una scalata ostile, il 51% del capitale custodito da azionisti amici. E questo a proposito i pericoli e le preoccupazioni relative alle scalate da parte di fondi sovrani. Ecco, se noi però ci trasferiamo, voglio rimanere sui temi, diciamo, un po' tra l'economico e il giudiziario, in questo caso quello che vi sto per leggere. Diciamo però una notizia che il quotidiano La Repubblica è l'unico a portare in prima pagina e che è piuttosto preoccupante per un banchiere importante, cioè Cesare Geronzi, perché leggiamo nell'apertura delle pagine economiche di Repubblica, con richiamo in prima pagina, annullato il proscioglimento per Geronzi e Cragnotti. Caso Eurolat, la Cassazione accoglie il ricorso. Il crack Parmalat tallona il presidente di Mediobanca Cesare Geronzi. Soltanto pochi giorni fa in Parlamento non è passato il lodo salva manager, che avrebbe potuto graziare l'ex numero uno di Capitalia, imputato di bancarotta con Tanzi e Cragnotti, e adesso interviene la Cassazione. I supremi giudici hanno annullato la sentenza di proscioglimento emessa dal GUP di Parma nei confronti di Cesare Geronzi il 4 aprile aprile scorso relativa alle accuse di bancarotta fraudolente e di estorsione aggravata. Annullato anche il proscioglimento per gli stessi reati dell'imprenditore Sergio Cragnotti e dell'ex dirigente Riccardo Bianchini Riccardi. La decisione della Cassazione si riferisce al troncone Eurolat del processo Parmalat, cioè la vendita da Cirio a Tanzi del comparto latte, un affare che secondo i calcoli della Guardia di Finanza avrebbe fruttato a Capitalia 250 milioni di euro. Dunque il giudice di Parma dovrà tornare a pronunciarsi seguendo stavolta le indicazioni degli Ermellini. Ecco, questa è la notizia che è assai, come dire, preoccupante, dicevo, per il noto banchiere nonché presidente di Mediobanca Cesare Geronzi. Il quotidiano La Repubblica ovviamente apre, come vi dicevo, come tutti gli altri, sul tema e le parole di Berlusconi, la svolta di Berlusconi, sì agli aiuti di Stato, e affida a Massimo Riva e a Tito Boeri due commenti. Massimo Riva che dice: ma il mercato vince ancora, chi guardi agli interventi governativi sulla crisi finanziaria in un'ottica strettamente nazionale rischia di scivolare in qualche errore di prospettiva. Troppo fresco è in Italia il ricordo di quali guasti di basso clientelismo abbia provocato l'intervento della mano pubblica negli affari bancari ed economici in genere. Questo scrive Massimo Riva, mentre Tito Boeri dice la politica e le scalate si occupa dell'altro aspetto del discorso di Berlusconi, che dice dobbiamo difendere sostanzialmente le nostre società da aggressioni, da scalate, insomma. Le recessioni sono periodi duri e difficili, soprattutto per un paese come il nostro che proviene da 15 anni di stagnazione, scrive Tito Boeri, con i redditi delle famiglie italiane rimasti al palo per così tanto tempo. Ma non sempre tutti i mali vengono per nuocere. Vi dicevo, se vediamo se lo ritrovo, perché ogni tanto io perdo il segno, devo dire, dei pezzi, 43, sì, eccolo qua, sì, dice, scrive ancora Boeri, a proposito, ci sono purtroppo indicazioni che sempre più imprese italiane, soprattutto di piccole dimensioni, già oggi faticano a finanziarsi, fondamentale perciò che trovino fonti di finanziamento alternative, come pure fonti di finanziamento alternative devono essere disponibili per chi vuole approfittare dei costi più bassi che ci sono durante le recessioni per realizzare i propri sogni. Se chi ha delle buone idee imprenditoriali non è messo in condizione di metterli in auto, trovando finanziatori per i propri investimenti iniziali o per piani industriali di rilancio di imprese già esistenti, la crisi rischia di prolungarsi, di trascinarsi molto a lungo. È un po' il ragionamento che faceva Sergio Marchionne, ma c'è qualcosa di più che scrive Tito Boeri, cioè è polemico con l'indicazione data dalla Presidenza del Consiglio. Il nostro Presidente del Consiglio tuttavia sembra convinto che sia meglio ridurre il più possibile i flussi di capitale verso il mondo delle imprese. La scorsa settimana ha proposto di chiudere i mercati finanziari. Fortunatamente nessuno lo ha ascoltato. Il vertice europeo di Parigi si sarebbe infatti chiuso con un ennesimo nulla di fatto se non fossero arrivate le notizie dalla borsa di Tel Aviv in caduta verticale. E quindi dice il Presidente del Consiglio tuttavia propone di sospendere la cosiddetta passivity rule, quella norma che impedisce al management di società scalate di ostacolare l'acquisto della compagnia per difendere la propria poltrona. Lo possono fare solo su preciso mandato dell'Assemblea degli azionisti. Strano che nessun giornalista presente in quell'occasione abbia posto al nostro Premier una semplice domanda. Ostili a chi, signor Presidente del Consiglio? Quelle che lei vuole evitare sono offerte pubbliche d'acquisto, ostili all'Italia o all'attuale management delle imprese? Sono ostili alla nostra economia o alle grandi famiglie che fanno oggi il capitalismo italiano? Insomma, polemico, vi dicevo, Tito Boeri a proposito delle iniziative. Voglio ricordarvi anche che la Repubblica, come molti giornali, danno progressivamente molta attenzione sempre di più alla protesta anti Gelmini. Sembrava una cosa di pochi, ma insomma sta crescendo. Scrive la Repubblica, per esempio, scuola migliaia di studenti in piazza, regioni e governo in guerra sui tagli, la generazione senza partiti. Questo è Marco Marozzi che si occupa di un racconto, di raccontare cos'è questo movimento di studenti che sta contestando la scuola, al di là poi forse della stessa riforma Gelmini. Quota bontà, ultima beffa, l'otto per mille allo Stato. E questo è il titolo che ritroviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, a firma Gian Antonio Stella. Sì, perché Gian Antonio Stella, autore insieme a Rizzo di un libro sulla casta che tutti ormai conoscono e ancora La Deriva, mette il dito su un'altra piaga, quella appunto dell'otto per mille. È una cosa che noi conosciamo bene perché paghiamo e destiniamo in qualche modo o alla Chiesa o allo Stato o ad altre istituzioni. Ma vediamo cosa scrive Gian Antonio Stella. Parola del governo: i soldi per la fame nel mondo non finiranno nelle casse delle banche in crisi. Meno male. Sull'otto per mille ne avevamo già viste troppe. Quando fu istituito la legge era chiara: i soldi raccolti dallo Stato andavano destinati a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. Doveva essere una specie di quota bontà, una fettina delle tasse veniva smistata a iniziative delle quali lo Stato spesso finisce per dimenticarsi. Una legge giusta. Dice: cosa c'è di più consolante, scrive Gian Antonio Stella, che pagare le imposte e sentirsi insieme più buoni? Col tempo però l'idea è stata stravolta e nella saccoccia dell'otto per mille ha cominciato a infilare le mani chi voleva far quadrare conti che non quadravano. Fino al punto che una volta un terzo del gettito fu usato per la missione umanitaria in Iraq e un'altra volta per tappare un buco al comune di Catania che non riusciva a pagare i libri scolastici dati coi buoni sconto o una tournée di ballerini brasiliani. Solo in parte corretto dal governo Prodi, l'andazzo è ripreso con un'accelerazione che in commissione bilancio ha sconcertato gli stessi membri della maggioranza. Basti dire che, svuotata la cassa per otturare la voragine aperta dall'abolizione dell'ICI, degli 89 milioni originali di euro dell'otto per mille, cioè soldi messi da noi sostanzialmente, togli qua e togli là, ne sono rimasti 3.542.000, un quinto dei soldi che i partiti di destra e sinistra tra le proteste di pietriste si sono spartiti un paio di settimane fa coi rimasugli della legge Mancia varata nel 2004 per sparpagliare prebende nei collegi elettorali. Di più, il costo dell'istruttoria per spartire i fondi supera l'importo distribuito, una vera follia. Insomma, fatti i conti, le 808 associazioni di volontariato, enti, organismi vari, le cui richieste erano state accettate, avrebbero avuto 4.383 euro a testa. Insomma, davvero una cosa incredibile. Conclude, dice ancora Gian Antonio Stella, diciamolo, così com'è l'otto per mille allo Stato è meglio abolirlo, la tassa resterà ma almeno la pagheremo senza sentirci presi in giro. Per gli aiuti al terzo mondo erano previsti quest'anno 733 milioni, ma che 322, che faranno dell'Italia a dispetto delle promesse del cavaliere al G8 di Genova, il paese più tirchio dell'Occidente con una quota dello 0,09, la più striminzita dal 1987. Un dato per tutti: coi soldi tagliati, secondo il CINI, che raggruppa le associazioni no profit, si potevano comprare 100 milioni di zanzariere contro la malaria in Africa o vaccinare contro la poliomielite 15 milioni di bambini, ma non si era detto che per non essere invasi da disperati in fuga dalla miseria bisognava aiutarli a casa loro? Questa la cattivissima nota editoriale di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera a proposito dell'otto per mille, che ripeto riguarda tutti noi, perché chi lo destina allo Stato sarà molto interessato a questo articolo di Gian Antonio Stella. Il giornale che polemizza invece con e non enfatizza la manifestazione degli studenti, tanto da aprire i cortei anti-Gelmini, manifesto per chi non va in piazza, la vera protesta è far sentire la voce della maggioranza che non sciopera, questo è il titolo d'apertura, però il giornale riporta un servizio, devo dire, un po' da brivido, molto interessante, che è così titolato: il racket dei funerali. Oggi non hai un morto per me, è il racket del caro estinto, fatto di soldi e soffiate, di accordi tra infermieri e società di onoranze funebri per spartirsi il mercato delle salme. Ecco i verbali del GIP di Milano. E la Gattola, non la Gattolla, scusate, che è l'autore dell'articolo, alle pagine 12 e 13, beh, si occupa di questa cosa che è davvero terribile. Milano, funerali in mano al racket, arrestati 41 infermieri e impresari. In 8 ospedali il personale vendeva i defunti alle agenzie di pompe funebri. Il GIP c'era un cartello. Sì, e ci sono le intercettazioni che sono davvero alcune, insomma, da brivido. Allora, dove sei rimasto? Ai 1044, alla bambina di 11 anni? Tira fuori il libro dei morti del San Carlo, così facciamo le correzioni. Favori isolati. Dalle 300 euro non è la solita infermiera, è una persona per bene. Intoppi. Lui e T sono due pezzi di M, quando fanno fare mezzo morto. La giornata inizia con un colpo di telefono o con una fax, è il mattinale dei decessi. È il mercato delle salme, leggiamo sul giornale. Dagli ospedali arrivano le informazioni che muovono il business del caro estinto, in cambio di mazzette, nomi e indirizzi dei morti, numeri di telefono dei familiari, e tutto nelle intercettazioni contenute nelle ordinanze di custodia cautelare che scardina la cupola dei servizi funebri milanesi. Questo il giornale. Peraltro pubblica un articolo di Giuliano Ferrara, che oggi è sul Panorama, perché il Cavaliere vince all'estero, questo Giuliano Ferrara. Ora, a proposito di Panorama e di settimanali, voglio rapidamente leggervi le copertine dei due settimanali in edicola: il bello della crisi, Panorama, prezzi in calo, borse giù, sconti, offerte, promozioni su, è il paradossale effetto della recessione annunciata. Per il consumatore impaurito si moltiplicano le occasioni allettanti, anche per comprare casa. Una guida completa. Mentre l'Espresso è le accuse di 5 pentiti, la camorra nel governo. Un altro boss rivela: Cosentino era a disposizione dei casalesi che preparano l'attacco a Saviano. Veltroni dice: ora basta, il sottosegretario deve dimettersi. Questo il settimanale L'Espresso. Il Manifesto invece titola Il Bel Paese, e il Bel Paese sono appunto gli studenti in piazza. Notti bianche anti-Gelmini, universitari e professori in lotta contro Italia alla ricerca, cortei, stazioni occupate, lezioni in piazza. Da nord a sud un'altra Italia riprende fiato e voce. Quindi enfatizzazione di questo. Nasce il primo movimento di massa contro il governo Berlusconi. Oggi lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base accoglierà tutto questo portando nelle strade di Roma una protesta che annuncia l'avvio del mese più caldo dalle elezioni di aprile. Questo il Manifesto in prima pagina. Ho finito il mio tempo quasi, voglio, no, abbiamo ancora sì un minuto, quindi andiamo al Riformista e Avvenire. Il Riformista: arriva lo Stato libico, e qui il riferimento è all'intervento della Libia in Unicredit, che è di grande rilievo questa notizia, bisogna dirlo. L'altro, L'Avvenire invece, si occupa di un altro dei drammi: il Papa, cibo, non speculazioni. Ecco, quella giornata dell'alimentazione celebrata in piena crisi mondiale, Benedetto XVI ricorda alla FAO che il mondo può sfamare tutti e deve farlo. E infine voglio ricordarvi ancora che alle 8:30, dietro la notizia, ci sarà Ferruccio De Bortoli, direttore del Sole 24 Ore, che parlerà del libro che esce domani in edicola, La Grande Crisi, il libro del Sole 24 Ore, La Grande Crisi, domande e risposte. E adesso io vi saluto e vi do appuntamento a domani.